Ben ritrovati da Mirko Cavallin in studio e di Daici alla parte tecnica, altra puntata dei nostri speciali eventi e incontri che si sono svolti nel periodo recente nel territorio della Chiesa Padovana. Oggi siamo alla Facoltà Teologica del Triveneto, la giornata di studio che si è svolta il 6 dicembre scorso sul tema Verso il matrimonio cristiano in ascolto del Sinodo. Sapete che proprio sulla famiglia c'è stato il sinodo dei vescovi, il sinodo straordinario dei vescovi sulla famiglia nel 2014, poi quello ordinario nel 2015, seguiti dalla pubblicazione dell'esortazione apostolica post-sinodale di Papa Francesco Amoris Laetitia. Alcuni elementi nuovi nella pastorale che però chiedono di essere approfonditi, alcuni sono arrivati anche sulle prime pagine dei quotidiani, ma purtroppo in modo un po' parziale. Bisogna approfondire per verificare come si inseriscono nella tradizione bimillenaria della Chiesa senza tradire la dottrina. Questa iniziativa della Facoltà Teologica del Triveneto è il momento pubblico di confronto e di dibattito promosso ogni anno dal biennio di specializzazione della facoltà, che così mette a contatto con la realtà pastorale del territorio sociale i temi trattati in aula dagli studenti. La famiglia, in particolare i percorsi di preparazione al matrimonio cristiano, sono oggetto appunto di questo seminario laboratorio annuale rivolto agli studenti che in questa occasione condividiamo con voi. Sentiremo gli interventi di due esperti, padre Oliviero Svanera, docente di morale sessuale e familiare alla Facoltà Teologica del Triveneto, nominato proprio a dicembre scorso nuovo rettore della Basilica di Sant'Antonio, e Monsignor Enrico Solmi, delegato dei Vescovi Italiani al Sinodo sulla Famiglia, già presidente della Commissione Episcopale per la Famiglia e la Vita della Conferenza Episcopale Italiana. Iniziamo allora dall'intervento di padre Oliviero Svanera. Allora, una piccola premessa, nel senso che, come si diceva, abbiamo vissuto due sinodi, poi adesso è uscita l'esortazione apostolica Amoris Laetitia, alle spalle abbiamo il Vaticano II e un altro sinodo sulla famiglia con Familiaris Consortio. La sensazione è che poi in realtà stiamo vivendo per certi versi le stesse contraddizioni degli anni conciliari e anche del pontificato di Wojtyła. Da una parte il calo dei matrimoni o la permanenza dei giovani in famiglia, questa storia della famiglia lunga del giovane adulto, con poche propensioni alle scelte definitive, la crisi un po' dell'istituto matrimoniale familiare. Dall'altra parte si va a vedere che comunque le inchieste dicono che il desiderio di fare coppia e di costituire la famiglia rimane comunque una dimensione di valore. Si nota a causa della natalità, però tante coppie i figli li desiderano, magari sono in difficoltà nel poter arrivare a questa progettualità. Si parla di scristianizzazione, di secolarizzazione, contemporaneamente di ripresa del sacro o di spiritualità. Arriva Papa Francesco, tutti a dire che c'è nuova linfa nella Chiesa, quindi contraddizioni. Certamente è un tempo di grazia, un tempo da comprendere, forse per poter realizzare e annunciare il Vangelo dell'amore e della vita, e questi sinodi un po' stanno a dirci che possiamo sperimentare in questo tempo il Cristo come colui che dà pienezza alla verità e libertà. E lo dico anche perché questa premessa forse uno potrebbe pensare che parlare di fidanzamento in questa fase è un po' anacronistico, un po' come quando, detto tra noi, insomma, mi permetto alcune battute, quando ti dicono di parlare di rapporti prematrimoniali, insomma, se hai l'impressione che parli di cose che non sai a chi sono rivolte. Dall'altra parte io vivo un'esperienza, ecco, anche pastorale. Da più di 15 anni propongo un percorso di 2 anni per coppie che non hanno ancora fissato la data del matrimonio, e con mia somma sorpresa c'è molta adesione. Significa che alcuni segnali possiamo interpretarli bene e capire che questo momento di preparazione a una tappa importante come il matrimonio, il tempo del fidanzamento può essere un momento privilegiato per annunciare il Vangelo dell'amore. E quindi con una certa fiducia anche che affronto questa riflessione, ecco, mi è stato chiesto del contributo del Magistero. Io farò tre considerazioni accompagnate da tre domande, quindi spero di essere anche chiaro, non ho preparato una traccia, ma spero di essere abbastanza lineare. E la prima considerazione è che il Magistero italiano ha detto tanto sulla preparazione al matrimonio e alla famiglia. Io darò una scossa veloce su questo contributo. Domanda: c'è ancora qualcosa da dire? Seconda considerazione, poi dal dire bisogna passare al fare. Allora ci si domanda, si fa molto, ma forse bisogna fare diversamente? Bisogna forse innescare un'altra marcia? Alcune esperienze incoraggianti, magari appunto quella che citavo in premessa, possono dirci qualcosa. Terza considerazione, normalmente si dice tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Ma il mare forse non riflettiamo abbastanza che è navigabile. Come è navigabile? Allora sullo sfondo vedete che ci ho messo il mare, può aiutare. Il mare magnum dei documenti, tra il dire e il fare che c'è di mezzo il mare, e il mare che è navigabile. Vediamo al primo punto il mare magnum dei documenti, il contributo del Magistero italiano. Il Vaticano II aveva riflettuto sulla famiglia, ricordiamo un po' alcuni contributi di Lumen Gentium, in particolare Gaudium et Spes, però non si era occupato della preparazione al matrimonio. E anche l'Ordo Celebrandi Matrimonium del 69 se ne occupava in modo sbrigativo. E allora ci hanno pensato un po' le conferenze episcopali a colmare questa lacuna. E a partire dal dopo concilio è tutto un susseguirsi di testi. Io ne segnalo alcuni importanti. Il primo testo del 69, Matrimonio e famiglia oggi in Italia. È interessante anche, lo dico per gli studenti, ma anche per chi magari è cultore di queste cose che non ho sottoscritto, che si vanno a leggere questi testi e si dice guarda un po' cosa dicevano già nel 1969. Due cose interessanti dicevano i vescovi, almeno secondo me, che era importante, dice, non minori, cito, anzi con speciali cure pastorali si devono dedicare ai giovani fidanzati, si può pensare per loro a una forma di catecumenato. Se siamo arrivati all'amore di Letizia, siamo nel 69, già si parla di questa cosa. Dice, cosa ha inventato l'amore di Letizia? Già era qua. Allora, l'attenzione ai fidanzati rimbalza in questo testo che parlava del matrimonio e della famiglia e si dice, al numero 18, sempre qui cito, che il fidanzamento è tempo particolare di grazia nel quale i fidanzati si conoscono reciprocamente, si preparano al matrimonio, in questo periodo si sperimentano la grazia che Dio elargisce loro, eccetera. Parlare di matrimonio come tempo di grazia significa già immaginare una possibile teologia del fidanzamento. È molto interessante dal mio punto di vista perché la teologia del matrimonio già si innescava da qualche anno anche che ha preparato il concilio, ma qui si comincia già a immaginare qualcosa che ancora oggi forse è ancora da interpretare bene. Abbiamo di fronte dei battezzati, abbiamo di fronte delle persone chiamate al matrimonio, c'è un continuum con un tempo, gratia supponit naturam et eam perfecit, quindi un tempo di grazia particolare. Si dice, seconda considerazione, che poi è una preparazione da interpretare come catecumenato, cioè non basta la preparazione al matrimonio, ci vuole una concezione nuova del fidanzamento. Ora, dire che è un tempo di grazia, dire che è tempo di catecumenato, siamo nel 69, mancavano le idee chiare, mancavano le esperienze vive, più che altro, se vogliamo. E di lì a poco ci sono due interventi interessanti che ancora oggi rimangono dei punti di riferimento, e sono nel 72 il rituale dell'iniziazione cristiana degli adulti, che prevede per le persone già battezzate una forma, ecco, particolare di preparazione di itinerari. E poi nel 73 evangelizzazione e sacramenti, dove si parla di catechesi permanente o catecumenato che segue gradualmente il cristiano dall'infanzia alle successive fasi della vita, e in particolare dai sacramenti dell'iniziazione cristiana fino ai sacramenti dell'ordine e del matrimonio. Quindi, come dire, si riconosce che tanti adulti italiani sono stati battezzati da piccoli, ma hanno bisogno di una pastorale nuova che dia maggiore consapevolezza personale e progressiva alla fede. Quindi lo strumento giudicato migliore è questa idea della catechesi permanente. Sempre negli anni 70, allora, sulla scorta di evangelizzazione e sacramenti, esce evangelizzazione e sacramento del matrimonio, il quale applica questa indicazione dell'attenzione ai fidanzati, che debbano imparare ad ascoltare la parola, partecipare attivamente alla vita della Chiesa, fare un'esperienza liturgica, e per far tutto questo si dice, cito, tra le varie proposte, il più rispondente alla realtà sacramentale del matrimonio cristiano è l'esperienza degli itinerari catecumenali. Risponde questa proposta alle esigenze dell'attuale situazione pastorale. Non pochi battezzati che accedono al matrimonio, dice sempre questo testo del 75, spesso domandano il sacramento più per tradizione che non per vera decisione di fede. Altri, al contrario, davanti ad un avvenimento così importante, sentono la necessità di approfondire la fede e il senso della loro appartenenza alla Chiesa. Quindi già qui si fa vedere che ci sono varie tipologie di persone: chi si avvicina per necessità o tradizione, chi si avvicina invece per volontà di approfondimento. Sia i corsi per fidanzati, sia i colloqui pastorali devono ispirarsi al metodo e ai contenuti dell'itinerario catecumenale. Quindi questo testo, Evangelizzazione del Sacramento del Matrimonio, fa un'opzione precisa per questo itinerario catecumenale. Anche qui però, secondo me, non è chiaro quali siano le piste concrete o cosa significhi dal punto di vista pastorale parlare di itinerario catecumenale. È un enunciato. Nell'89 esce un altro testo, la preparazione dei fidanzati al matrimonio e alla famiglia. Qui siamo all'interno degli orientamenti pastorali degli anni 80, ricordo così, giusto per citare magari chi ha vissuto questo tempo, comunione e comunità nella Chiesa domestica, quindi l'idea proprio della famiglia, e si legge qui che espressamente i tradizionali corsi di preparazione al matrimonio devono decisamente diventare in maniera sempre più completa una proposta di itinerari di fede e quindi di vita cristiana vissuta, capace di coinvolgere fin dal dopo cresima i giovani prima e durante il fidanzamento. Quindi qui l'obiettivo sembra ancora essere quello di una preparazione prossima, ma ecco, con due attenzioni interessanti. Il fatto che si dica che questo è un tempo di discernimento, quindi un periodo importante di tirocinio per maturare una scelta, una decisione. Cito, questa stagione della vita, andata in silenzio in questi ultimi anni, va riscoperta e ripresentata come un importante tirocinio della coppia di fidanzati nella maturazione spirituale del rapporto affettivo. Guardate che se si dovesse fermarsi su queste parole, noi li conosciamo i tirocini per chi fa certe professioni, cioè siamo lontani dal capire cosa vuol dire tirocinio, insomma, comunque non voglio commentare. Una prima chiarificazione nel discernimento della chiamata personale a sposare quella persona. È una decisione che lascia spazio a ulteriori verifiche in ordine al consenso per il patto nuziale. Ulteriori verifiche, chiarificazione, discernimento, tirocinio. Si chiede tanto. Quindi, quando in realtà la sensazione è che questi cosiddetti corsi prematrimoniali, più che chiedere questo, erano orientati, almeno per anni, a coprire una mancanza di contenuti o a centrarsi molto sui contenuti. Si comincia a percepire forse che questo non basta, addirittura i vescovi sono molto lucidi. Pesa sulla pastorale, sempre cito, la grave latitanza della proposta cristiana durante il tempo del fidanzamento. Grave latitanza. Le iniziative arrivano troppo tardi, se arrivano, si dice, in un momento che raramente è favorevole. Domanda sarebbe anche molto attuale. Non potrebbe sembrare patetico tanto impegno di fissare l'obbligo di preparazione ai corsi a 3 o 6 mesi prima delle nozze, cioè proprio nel momento in cui inevitabilmente affiora lo stress per la preparazione alla casa, la scelta dei mobili o la distribuzione dei confetti? Soprattutto non si valorizza l'esperienza del fidanzamento che dunque appare, è solo di un tempo cristianamente morto o comunque indifferente. Quindi c'è una chiara percezione della realtà e si dice che bisogna pensare a un tempo di discernimento e anche qui, non preferendo in questo caso parlare della terminologia catecumenale, si preferisce parlare di una proposta di itinerari di fede. Un itinerario, cito, che muove dalla realtà umana dei fidanzati per illuminarla nel senso cristiano della vita, dell'amore e del matrimonio. I termini, sempre cito, cammino e itinerario evocano esperienze continuate nel tempo e dinamiche, ma definite. Pertanto è bene che ci siano un segno iniziale, un segno conclusivo e tappe intermedie. Il tutto con modalità unitarie, organiche, graduali e progressive. E anche si fa riferimento alla dimensione del cammino differenziato. Ogni coppia, quando domanda il matrimonio, si presenta con un proprio profilo spirituale, con una storia alle spalle, con un cammino o non cammino di fede dopo il battesimo, a volte senza neppure aver portato a termine con la cresima l'itinerario di iniziazione cristiana. Il tenere in considerazione tutto ciò e rispetto della persona risponde a una precisa esigenza dell'evangelizzazione. Non a tutti si può dare cibo solido, ma solo latte, come scrive l'Apostolo. Molto interessante questo richiamo al discernimento e questo richiamo agli itinerari di fede, spostando la dizione da catecumenato a itinerari di fede. Frattanto era arrivata Familiaris Consortio e si esortavano i vescovi a ispirare i documenti alla luce di questa nuova esortazione apostolica. E quindi in Italia esce un documento molto importante, siamo nel 1993, il direttorio di pastorale familiare. Qui si dedica un capitolo intero, terzo capitolo, al fidanzamento, titolato appunto fidanzamento tempo di grazia. Si parla che è un tempo di crescita, un tempo di grazia, un tempo di responsabilità. Ecco, quindi, e cito siamo nel 93, quindi insomma cominciamo ad essere vicini ai nostri anni, si dice a un certo punto, il numero 40, la pastorale prematrimoniale si trova ad una svolta storica. O rinnovarsi profondamente o trasformarsi in una realtà ininfluente e marginale. È un'affermazione forte. Cioè qui si chiede veramente un cambio autentico, perché l'itinerario di fede sia coinvolgente, coinvolta la comunità cristiana e i diversi stati di vita della Chiesa. Una svolta storica. E segnalo qui in questo testo importante tre aspetti. Una riflessione sui destinatari, che rimane molto attuale, perché non si parla più solo di fidanzati, nel termine classico del termine, si parla di coloro che pur senza essere ancora fidanzati cominciano ad assumere atteggiamenti paragonabili a quelli dei fidanzati stessi. Quindi si percepisce in questa società, come si dice, liquida, che anche il termine fidanzato non corrisponde più alle diverse tipologie dei nostri giovani. Come pure il destinatario si distingue tra quelli che sono, dei principianti o dei riprincipianti e i più sensibili e preparati. Quindi un diverso atteggiamento, una diversa proposta verso diverse tipologie di giovani che camminano nell'amore. Un secondo aspetto riguarda le possibili forme in cui può realizzarsi il cammino di preparazione. Si dice che molteplici possono essere i modi e le forme di questa preparazione. Ora badate, ripeto, faccio già le mie chiose, ma se si andasse a vedere nelle comunità cristiane dove sono questi molteplici modi e forme, ecco, vi assicuro che non se ne trovano molteplici, siete tutti compagni per tre quarti. Ma su questo tornerò, scusate la dizione poco accademica, dialettale. Quindi si dice addirittura che dobbiamo dar modo di sottolineare la necessità di itinerari di fede che devono diventare la norma nel cammino di preparazione al matrimonio. Quindi qui si va già nella direzione di dire questi itinerari, che siano differenziati, che siano di fede, devono diventare la norma. Quindi si vorrebbe che diventassero in qualche modo la presenza costante nella comunità cristiana e non si riducano a cicli di lezioni o conferenze. Che ci siano coppie già sposate, eccetera, che accompagnino, eccetera, poi che si fissi almeno 3 mesi prima della data delle nozze l'inizio della preparazione, auspicando che possa arrivare ad essere un anno prima della celebrazione. Quindi è chiaro che sotto c'è la consapevolezza che la pastorale poi concreta è complessa, insomma la tipologia delle persone che arrivano ha bisogno anche di una certa gradualità. E si dice che la partecipazione deve essere ritenuta moralmente obbligatoria, quindi ricevendo Familiaris Consortio numero 66 che invitava a questo, anche se non sono vincolanti per la celebrazione. Lentamente in questi anni l'addizione del catecumenato va scomparendo, poi accennerò al fatto che c'era molta discussione tra teologi sull'uso di questo termine. Comunque dicevo, cambia la prospettiva dei destinatari, c'è molta consapevolezza che le forme possibili devono essere allargate. Un terzo aspetto interessante è quello della mistagogia, cioè ovvero la necessità di accompagnare oltre la celebrazione del sacramento. Le giovani coppie devono essere assistite soprattutto nei primi anni della loro vita coniugale per essere aiutate a riconoscere nella fede e a vivere nella concretezza di ogni giorno la loro vocazione e missione. E interessante che nel 2004, quando esce il nuovo rito del matrimonio, questo discorso sulla mistagogia viene considerato necessario. Nel testo del 2006, Celebrare il mistero grande dell'amore, che è un bel testo anche concreto di valorizzazione di questo nuovo rito, si dice che con la riscoperta della certa teologia del matrimonio, della liturgia del matrimonio, deve essere riscoperto anche un nuovo modo di fare pastorale. E si danno alcune schede, si fa in modo, come dire, di accompagnare anche il pastore nell'attenzione a questa evoluzione pastorale. Arriviamo all'ultimo testo introdotto dal nostro Vescovo, 2012, orientamenti pastorali sulla preparazione al matrimonio e alla famiglia. Un testo di indubbio valore, non lo dico perché c'è Monsignor Solmi qui, è un testo che ha alle spalle un grande lavoro, una grande indagine sui percorsi di preparazione al matrimonio, penso prima volta che si faceva una cosa di questo tipo a livello proprio, insomma, parliamo di 173 questionari che sono arrivati dalle diocesi, sono 225 le diocesi, quindi capite che c'è stata una risposta quasi unanime a questo tipo di indagine sulla situazione della preparazione al matrimonio. La commissione aveva poi coordinato questo con l'ufficio della pastorale familiare e il CIS, il Centro Italiano di Studi sulla Famiglia di Milano. Indagine che era stata commissionata 10 anni dal direttorio di pastorale familiare, e risulta qui alcuni dati semplici che un po' tutte le diocesi hanno questi corsi di preparazione al matrimonio abbastanza omogenei, dai 6 ai 12 incontri normalmente. In genere c'è una conduzione d'équipe, più eterogenei nelle modalità, dove più frontali, dove più interattivi, eterogenei anche nei contenuti, tra chi sottolinea più l'aspetto umano, chi sottolinea di più l'aspetto di fede. La metà delle diocesi italiane ha qualche tentativo di articolare la preparazione, ecco, senza entrare nei dettagli, ma si fanno alcuni esempi: Treviso, Vittorio Veneto, Como, Fiesole, Firenze, che ne so, Milano, dove c'è appunto per esempio un ciclo triennale di preparazione. Si citano movimenti che lavorano in tal senso, l'Equipe di Notre Dame, i neocatecumenali, l'Eremo di Caresto, altri percorsi di movimenti, eccetera. Si rileva la presenza ormai forte dei conviventi, a seconda delle regioni italiane si va dal 25-30%, anche un percentuale del 60% ormai di conviventi. Si segnala che la collaborazione con la pastorale giovanile è ancora in fase pionieristica, come dire, no, se è. Solo 28 diocesi segnalano che è importante questo, con alcune esperienze, qualche tentativo, ma veramente siamo veramente molto lontani da percepire questa idea della pastorale integrata, come la si chiama. Qui segnalo alcuni punti interessanti, poi magari, visto che abbiamo qui un testimone diretto come Monsignor Soni, potranno essere evidenziati altri, ma io dico la segnalazione o risegnalazione che bisogna passare o proporre più percorsi che corsi. Quindi educazione all'amore, itinerario di fede, primi anni del matrimonio vanno composti insieme in una prospettiva unitaria, in modo tale che siano comunque itinerari di fede, capaci di accompagnare i giovani. Si dice che dovrebbero essere almeno 12 incontri nell'arco di un anno, che ci dovrebbe essere un confronto all'interno della coppia e fra le coppie partecipanti. Tenete presente che da questa indagine risulta che il 52,4% di questi corsi è ancora con relazione frontale, quindi vuol dire che un percorso uno su due ha ancora questo stile della relazione, della conferenza, e poi speriamo che duri poco e che andiamo a casa. Ecco. Differenziazione di percorsi, quindi più percorsi che corsi differenziati. Si dice, ormai tanti fidanzati sono distanti dalla pratica religiosa, dalla partecipazione attiva alla vita della Chiesa. Ci sono altri che scelgono di sposarsi in Chiesa invece con una coscienza di fede più chiara, magari che hanno alle spalle cammini pluriennali, perché sono cresciuti in un movimento, sono cresciuti in un'associazione, eccetera. Per questo è bene offrire occasioni formative più approfondite e distese nel tempo, con cammini più prolungati e articolati. E sì, con un bel titolo si dice, nel numero 24, ci vogliono percorsi personalizzati per cercatori di Dio. Percorsi personalizzati per cercatori di Dio. Quindi, e si recupera qui l'idea appunto di offrire itinerari di tipo catecumenale, nello spirito e nei contenuti, poi tornerò su questo, che accompagnano alla presa di coscienza e riscoperta della vocazione battesimale e in chiave sponsale. Ecco, se posso fare una parentesi appunto personale, quando ho iniziato questo percorso di cui vi dicevo, io trovavo molti giovani che dicevano ma non c'è qualcosa di diverso rispetto a quegli incontri 7-8 che ci sono in giro? Ecco, quindi se si va a vedere forse la capacità di leggere anche certe istanze, ecco, ci aiuta. Terzo dato che segnalo in questo testo del 2012 è la necessità, parlavamo prima di mistagogia, di prendersi cura delle coppie nei primi anni del matrimonio. Quindi non è ormai più secondario, e qui cito il numero 35, che i primi anni di matrimonio sono spesso i più bisognosi di cura e di autentico accompagnamento. Occorre investire le migliori energie per costituire un collegamento tra la preparazione al matrimonio, i primi passi della vita di coppia e l'iniziazione attraverso significativi progetti di accompagnamento, attraverso i quali la rete di famiglie che costituisce la comunità cristiana comunichi un patrimonio di esperienze. Bene, da ultimo ovviamente si parla anche del ruolo degli operatori, si dice che bisognerebbe che ci fosse veramente un'equipe costituita da sacerdote, coppie di sposi, magari anche persone consacrate, cioè per far vedere proprio la bellezza delle vocazioni, per sentirsi anche compagni di viaggio. Bene, allora la prima domanda era: c'è qualcosa di non detto? Ecco, forse già in questa piccola carrellata, che spero non sia stata noiosa, ci accorgiamo che tanto è stato detto. Tra il dire e il fare, la seconda considerazione che riprende anche, se vogliamo, questi contenuti. Molto è stato detto, certamente dobbiamo essere grati a questo contributo del Magistero, perché non c'era alle spalle una grande tradizione di riflessione su questo, appunto dicevamo come il Concilio era stato un po', ecco, non si era espresso. Parlare di tempo di grazia, tempo privilegiato, tempo di discernimento, tempo di responsabilità. Addirittura ci sono degli studi che vorrebbero che il fidanzamento diventasse o avesse un proprio status, dovrebbe essere iscritto nella Chiesa come un ordo, cioè in analogia con l'ordo di catecumeni, un ordo dei fidanzati, con una specifica fisionomia all'interno della comunità cristiana e quindi con una propria dimensione di essere all'interno della comunità cristiana, pensando che il fidanzamento va visto in un senso teologico sacramentale come una sacramentalità in germe. Quindi qui si chiede che l'impostazione dal dire appunto al fare, ecco, sia ripensata. Ma sicuramente se c'è molto da fare, direi che in quest'ambito c'è sicuramente molto da fare, mi domando, ecco, se questo fare non sia da pensare proprio in senso molto diverso, ed è faticoso pensare in senso diverso quando abbiamo sempre fatto così. Come pensare a un corso immediato di preparazione al rito, al matrimonio in chiesa, senza aver prima fondato la fede in Cristo? Per inciso, sono sempre analogie un po' discutibili, però nella vita religiosa esiste il postulato che è nato in questi ultimi 20-30 anni, perché i nostri giovani, ci accorgiamo che faranno pure la vocazione religiosa, ma se non si va a verificare se sanno il credo, è un po' un problema. E poi c'è il dopo, che conduce ad essere presenti nella comunità cristiana come protagonisti di questa vocazione, di questa consacrazione matrimoniale, di questa ministerialità, tutte parole impegnative. Ora vi dico, forse bisogna innescare, dicevo, una marcia diversa. Già nel 93 si parlava di una svolta radicale, di una pastorale nuova. Effettivamente ben venga questo laboratorio, cominciare a dare delle direzioni a questi percorsi che non siano solo corsi, che aiutino ai nostri fidanzati a immaginare una progettualità, parola che spaventa. Da una preparazione immediata ad una pastorale di accompagnamento, in cui appunto, come dice la parola, accompagnare, molto cara a Paolo Francesco, tra l'altro, c'è un percorso. Che sia un itinerario di fede o che siano itinerari sul modello catecumenale, qui ecco, ci capiamo, insomma, le oscillazioni terminologiche hanno il loro valore, per cui ci sono alcuni studiosi che dicono: ma non è giusto trasferire questa idea del catecumenato, perché è bene lasciarla all'iniziazione cristiana e trasferire questa esperienza, la preparazione del matrimonio è un po' discutibile. Bene, ben venga, ma capiamoci, giustamente questo documento del 2012 dice: importante ripensare e offrire itinerari di tipo catecumenale nello spirito e nei contenuti. Cioè, al di là della discussione sulla parola catecumenato, però c'è un riferimento a una struttura che può essere applicata alla pastorale prematrimoniale. Si dice, cito sempre in questo caso questo testo, orientamenti pastorali che accompagnino la presa di coscienza e di scoperta della vocazione battesimale in chiave sponsale. Un itinerario sì fatto nella partecipazione alla vita della comunità cristiana sostiene la coppia nel maturare, nel riscoprire Cristo e la Chiesa, l'incontro con il Cristo, con il Dio vivente. Quindi l'analogia, se funziona, funziona come principio di ispirazione. Lasciarsi ammaestrare dall'esperienza fondamentale della iniziazione del catecumenato battesimale. Quindi il vantaggio in fondo di questo ispirarsi al catecumenato è l'idea delle tappe segnate da alcuni riti, poi l'accenno velocemente. Quindi pensare a questi cammini come catecumenali darebbe la possibilità di probabilmente intanto dare un po' a ciascuno ciò di cui ha bisogno e non uniformare la proposta, e poi permetterebbe una verifica. Allora le parole tirocinio, verifica, discernimento non sarebbero parole vuote, diventerebbero la possibilità effettiva anche che la coppia entra nella possibilità di capire qualcosa di sé e di maturare. Arriviamo alla terza osservazione, considerazione: dal dire al fare, c'è di mezzo il mare, sicuramente ci vuole una svolta, ma il mare è, dicevo, navigabile. Allora, perché uno potrebbe dire sì, tante belle osservazioni, tante belle indicazioni pastorali e magisteriali, poi uno comincia con le obiezioni: ma non ci sono risorse disponibili, ma siamo in pochi, poi i fidanzati arrivano all'ultimo momento, ma poi già subiscono questi incontri di preparazione, ma ci sono tante cose da fare, e avanti. Allora, dico così molto semplicemente: il mare è navigabile in che direzione? Ecco, facendo alcune scelte. La prima è, secondo me, che non so se siamo convinti che ci voglia una mentalità nuova. Mi veniva in mente, mentre preparavo queste schede, al documento di base della catechesi italiana, rinnovamento della catechesi del 1970, siccome ho avuto modo di studiarlo un po' anche per studi miei, il testo, che è fatto di riferimento un po' al rinnovamento della catechesi in Italia, aveva 199 numeri. Gli estensori a un certo punto hanno detto: ma 199? Insomma, bisogna arrivare almeno a 200, se no. E hanno messo il 200, che è ad oggi il più citato. perché dicevano, dalle prospettive catechistiche tracciate nel presente documento, era come se avessero fatto, dobbiamo inventarci un numero, ce lo mettiamo lì, dalle prospettive catechistiche tracciate nel presente documento dovranno nascere i nuovi catechismi e i testi didattici, ma essi presuppongono che questa fase di preparazione sia compiuta, che tutti i membri della comunità ecclesiale siano messi in grado di rinnovare la propria mentalità e testimonianza alla luce di questi principi. L'esperienza catechistica moderna conferma ancora una volta che prima sono i catechisti e poi i catechismi. Anzi, prima ancora sono le comunità ecclesiali. Infatti non è concepibile una comunità cristiana senza una buona catechesi, così non è pensabile una buona catechesi senza la partecipazione dell'intera comunità. Direi che è interessante. Qui siamo di fronte veramente alla domanda se bisogna lavorare un po' sulla sensibilità, tra virgolette, sulla mentalità che abbiamo di fronte a questi percorsi. Se ognuno diventa un po' ciò che è attraverso i propri condizionamenti familiari, educativi, sociali, eccetera, allora bisogna veramente offrire le opportunità. Il numero 28 del documento orientamenti alla preparazione al matrimonio dice: la preparazione remota o generale al matrimonio è frutto di un'educazione cristiana che si rivolge in modo costante a tutti i credenti, dall'infanzia all'adolescenza, all'età adulta, nella convinzione che l'educazione all'autentico amore deve diventare contenuto permanente e il significato ultimo dell'opera educativa. Allora, mi verrebbe da pensare, chissà se qualcuno si ricorda qual è il piano pastorale della CEI di tutti questi 10 anni. Cioè, lo ricordiamo, facciamo presto a dimenticare, esce, ma di mezzo c'è l'educazione. La risposta esatta. Però qui abbiamo a che fare con questo documento qui, così che la presentazione di Monsignor Solmi dice che nel 93 si esortava, no, non è che esortava, affermava in modo allarmato che la pastorale prematrimoniale nella sua articolazione è uno dei capitoli più urgenti ed è di una svolta storica. Cioè era allarmato che qui bisogna cambiare, quindi formarsi come preti, coppie animatrici, comunità cristiana, nella logica, dicevo, di questo documento base della catechesi, questo è il primo punto. Lì sono tutti di mezzo, uffici parrocchiali, uffici pastorali, curie, eccetera. Secondo punto, io credo che sia la flessibilità e la gradualità e quindi la differenziazione. Qui bisogna cominciare, tra virgolette, un po' a sperimentare qualcosa. Perché ci sono i conviventi, ecco, si sa che alcune diocesi ci hanno provato, poi questi si sentono in un ghetto e allora non è il caso di fare un cammino per loro, bisogna, quindi mettiamoli insieme, ma a questo punto bisogna forse domandarsi cosa vuol dire itinerari di fede diversificati e appunto differenti, che siano concentrati giustamente sulla parola, sulle esperienze, sulle celebrazioni, con momenti di vita comunitaria, ma va pensato con riferimento a persone precise, con dei tempi specifici, con un tirocinio, l'idea del discepolato. È rarissimo vedere percorsi che tengano conto delle differenze dei destinatari. Ecco, allora, faccio un esempio in questo orizzonte di progettualità presente, anche questo esempio in fondo anche nella lettura di questi testi. C'è il tempo del fidanzamento, del discernimento, c'è il tempo del fidanzamento e c'è il tempo della celebrazione e il tempo della mistagogia, sono tempi diversi. Il mio ragazzo, la mia ragazza, è proprio questa la persona che il Signore mi chiama per costruire una storia di amore? Sono io la persona giusta? Questo è un tempo specifico, è un tempo che potremmo anche dire dove si mette in gioco la dimensione vocazionale, la dimensione di interrogativo sul senso dell'amore e sulla propria anche maturità. Il tempo del fidanzamento è già un tempo, potremmo dire, già più progettuale, un orizzonte di discepolato. Vivo in Cristo, seguendo Cristo, la mia esperienza di coppia, cosa vuol dire che la mia coppia è cristiana? Che voglio vivere un apprendistato di amore cristiano. Eros, agape, sono parole vuote, se non si comincia effettivamente anche a coniugarle con la conoscenza della proposta cristiana. Poi c'è il rito, è il tempo della celebrazione, ma anche qui, citavo prima questi testi di accompagnamento al rito del 2004, come celebrare il rito per organizzarlo in un'ottica di vita cristiana, in un orizzonte che non sia solo rituale, ma ecco, di esperienza fruttuosa. Poi c'è il tempo della mistagogia, il dopo è un'incognita, qui dopo aver celebrato il rito ci si saluta, arrivederci. Come entrare nella quotidianità, come continuare questa formazione permanente. Allora, se questi sono alcuni passaggi che forse delineano anche alcuni percorsi, poi ci sono anche delle celebrazioni che accompagnano, quindi dei momenti di passaggio di questi momenti, ecco, di diversi, di cammino. Quindi la celebrazione per il discernimento, un momento di preghiera particolare in cui ci si chiede l'invocazione allo Spirito per capire cosa stiamo vivendo, la benedizione dei fidanzati, io penso che siano esperienze che ci siano anche, ma il problema è se sono poi legate o meno ad una scadenza di percorsi, il rito stesso del matrimonio. Quindi arrivo alla conclusione. Tre conclusioni molto, molto semplici, alla luce di un po' di questo percorso che ho delineato. Che dicono anche tre attenzioni o tre prospettive di ulteriore sviluppo della riflessione teologica sacramentale sul matrimonio e quindi sul fidanzamento e la preparazione del matrimonio. La prima è che dopo ormai tutta questa massa di documenti e di cammino di più di 40 anni, io credo che bisogna veramente che i nostri percorsi di preparazione al matrimonio vengano aggiornati se non rivisti in modo radicale, e questo lo dice anche questo testo di Monsignor Solmi, lo si dice proprio che siano rivisti in modo radicale. Quindi ci sono tante intuizioni anche dal punto di vista del sacramento del matrimonio che hanno dato una vivacità anche alla spiritualità e alla riflessione, ecco, sulla famiglia. Ma ecco, bisogna che la buona pratica, le buone pratiche, come le chiamiamo qui in facoltà, bisogna che si diffondano di più per rendere attraente, per rendere anche bello questa proposta dell'amore coniugale tra i cristiani. Quindi credo che sia veramente venuto il tempo di cominciare anche a fare dei tentativi, dicevo, di aggiornare, se non di rivederli radicalmente. La seconda considerazione è che la famiglia bisogna che diventi di più veramente soggetto di pastorale, di unità pastorale, di unificazione della pastorale, però questo è il mio punto di vista, ma una pastorale che metta al centro la famiglia, che la renda capace di evangelizzare, di iniziare i ragazzi, di accompagnare, altrimenti anche la proposta del matrimonio della famiglia rischia di essere sganciata, poi se la famiglia resta da una parte, dall'altra, insomma. Non c'è questa capacità di far vedere che la famiglia è veramente la cellula della società e della chiesa domestica. Quindi anche qui la cosiddetta mentalità di cui dicevo ha bisogno di domandarsi se la famiglia è veramente il soggetto principale unificatore delle nostre azioni ecclesiali. Da ultimo la comunità cristiana e il suo insieme, lo si dice in modo molto bello in questo testo Orientamenti pastorali sulla preparazione del matrimonio e della famiglia, questa famiglia di famiglie, la comunità cristiana che accompagna, si parla dell'abbraccio accogliente della Chiesa Madre, una comunità che accompagna. Sappiamo di come in realtà questa formazione è un po' a latere. Il fidanzati cercano dove andare a fare la formazione, il parroco sa o non sa, si informa, poi se hanno fatto il percorso, chiede il certificato, ma che cosa abbia e chi abbia accompagnato spesso la coppia non lo sa nessuno, e quindi questo è un altro riferimento secondo me importante. Quindi questi percorsi che vanno aggiornati, che mettono veramente al centro la famiglia e che la comunità cristiana sia veramente accompagnatrice. Bene, chiudo con la conclusione di questo testo. La Vergine Maria, Madre del Bell'Amore, e San Giuseppe, suo fedele sposo, guidino le nostre comunità nell'accompagnare le giovani generazioni nella verifica e nell'accoglienza della vocazione sponsale. Amen. Padre Oliviero Svanera, docente di morale sessuale familiare alla Facoltà Teologica del Triveneto e da qualche mese rettore della Basilica di Sant'Antonio a Padova. La nomina era arrivata da pochi giorni quando si è svolto appunto questo incontro che vi stiamo proponendo il 6 dicembre scorso alla Facoltà Teologica del Triveneto sul tema Verso il matrimonio cristiano in ascolto del Sinodo dei Vescovi. È proprio un vescovo, adesso sentiamo il secondo relatore di quel pomeriggio, Monsignor Enrico Solmi, che è stato delegato dai Vescovi italiani al Sinodo 2014-2015 e già presidente della Commissione Episcopale per la Famiglia e la Vita della Conferenza Episcopale Italiana. Mi sono permesso di dare un piccolo schema anche in considerazione del titolo che mi era stato dato. Titolo impegnativo, cercato per lungo tempo il colpo di genio che non è venuto. Allora ho fatto quello che si fa dalle nostre parti quando c'è la nebbia, si prende la macchina, non si fanno dei numeri e si segue la linea di mezzaria, specialmente nei momenti preelettorali ben segnata, ecco. Quindi io ho cercato di fare semplicemente questo. E ho messo qui davanti a voi uno schema che io cercherò di rimpolpare. Devo anche dire che ringraziare Padre Oliviero per il suo intervento, devo anche ringraziare non solo per questa approfondita carrellata, ma anche per il ricordo dell'ultimo documento che non è stato facile partorire e anche per questa prospettiva che ci lancia di un mare navigabile. Io credo che questo mare, oltre che essere navigabile, è anche stato navigato, nel senso che ci sono esperienze che tentano in un qualche modo di inoltrarsi in questo mare e qualcuno è anche arrivato di là a toccare l'altra sponda. Faccio riferimento a cose anche molto semplici, molto artigianali, che però trovano spazio in comunità nelle quali c'è un desiderio di attenzione e di accoglienza verso i fidanzati. Non è questo il mio tema, ma devo dire che accanto a situazioni molto ancora ancorate ad un passato, ci sono anche prospettive belle di futuro. Ma veniamo a noi. E la meta, immagine, ruolo, vocazione della famiglia, nella Chiesa e nella società, secondo i padri sinodali e la Moris Letizia. Io vorrei tentare di tracciare una fisionomia della famiglia come mi pare sia emersa dal percorso sinodale e alla fine dal testo della Moris Letizia. Direi come degli schizzi di carboncino sopra un foglio bianco, ancora molto imprecisi, ancora bisognosi di essere congiunti con maestria, ma che possono, a mio parere, dare l'idea di un volto e forse anche individuare qualcosa di una profondità e di un'interiorità. L'insieme degli interventi dei padri che ho ascoltato con costante attenzione mi è parso un prezioso poliedro. Il Papa dice così a In Amoris Laetitia 4, riprendendo un'immagine dell'Evangelii Gaudium. Siamo davanti ad una ricchezza di difficile sintesi. E ci troviamo davanti anche ad un frutto di un lavoro sinodale che viene consegnato alle chiese particolari, perché lo accolgono e perché lo possono tradurre all'interno della loro cultura. Delineare una fisionomia, da un lato potrebbe sembrare abbastanza semplice, perché il Papa dice: io non ho avuto intenzione di offrire una nuova dottrina, e nello stesso tempo non voglio dare una regola uguale per tutti. Quindi uno potrebbe dire: andiamo nella nostra pinacoteca e troviamo là il volto della famiglia. Dall'altro lato non è facile, proprio per questo, perché siamo davanti ad un percorso che ha alle spalle tutto questo patrimonio di riflessioni e documenti, ma che non si chiude con l'ultima parola della Amoris Laetitia, che finisce in levare. In secondo luogo ci troviamo davanti ad un percorso che è stato lungo di ascolto, lungo di dibattito e che è ancora lungo adesso di commento a seguito della Amoris Laetitia. Quindi non è facile tenere in mano questa complessità. Io, parlando ai miei preti, che vanno tutti ad un magazzino all'ingrosso per preti, oratori e quant'altro, immediatamente l'immagine che hanno colto dalla mia relazione è che andare là si compra un pacco di 200 palline da ping pong e qualcheduno questo pacco ti ha fatto lo scherzo da prete e ti ha tagliato il fondo. Tu esci con il pacco che si sta pian piano dissolvendo e cerchi di trattenere quello che puoi. Per me a volte leggere la Amoris Laetitia mi ha lasciato questa sensazione. È veramente ricca, ma è nello stesso tempo il rischio di perdersi in questa ricchezza. Siamo pertanto davanti ad un percorso così fatto e anche a scelte sinodali di ascoltare le famiglie, di lasciare libero un dibattito in aula, e proprio per questo ascolto e per questo dibattito sono arrivate nell'aula sinodale della Amoris Laetitia esperienze molto diverse che hanno contrassegnato il dibattito presentando punti avanzati di riflessione. È stato detto della Conferenza Episcopale Italiana: la riflessione c'è stata, c'è la fatica di passare dal dire al fare. Sono emerse situazioni nuove che hanno, per così dire, aiutato a guardare oltre la nostra visione occidentale, e sono anche emerse situazioni di bisogno che ancora ci interpellano. Ma veniamo con ordine. L'immagine. La prima sensazione che io ho della famiglia è che ci troviamo davanti ad una sorta di carta Peters della famiglia. La carta Peters era quella carta nella quale il geoide, che è la sfera del mondo, della Terra, veniva disteso su un piano e non aveva alcun centro che potesse essere privilegiato rispetto agli altri. Noi normalmente abbiamo una carta geografica che ha al centro l'Italia e da lì si irradia il nostro sguardo. La carta Peters non faceva questo, ci metteva davanti questo piano dove non c'era un punto centrale. Io credo che il Sinodo abbia mostrato questo, un'immagine della famiglia non occidentale, non atlantica, ma che raccoglie tanti stimoli e tanti volti da parte di tutti. Penso ad esempio ai padri africani e anche alle coppie africane che erano presenti sia nel sinodo straordinario che nel sinodo ordinario. ci hanno presentato temi quali la poligamia, il matrimonio a tappe, il desiderio di famiglia da parte dei giovani, il valore della fecondità e la difficoltà di concretare questo, ad esempio a causa della mancanza di lavoro, del colonialismo, delle guerre, e altre parti del mondo hanno segnalato il grande problema delle persecuzioni. Su tutto questo, il grande tema che credo che il Papa abbia acquisito anche in itinere della colonizzazione culturale, cioè di questo Occidente che in un modo o in un altro proietta e per certe volte anche impone modelli culturali che non sono propri di queste comunità. Penso al tema, all'appello che veniva forte dai padri e anche dai testimoni del blocco ex sovietico, dove a fronte di una programmata macerazione della famiglia e del matrimonio, emerge il desiderio di dare peso al matrimonio sacramento e di annunciarlo nella sua integrità alle generazioni nuove, facendo fatica a capire come in altre parti del mondo, ad esempio, si dia valore ai matrimoni civili, in quanto in quel contesto i matrimoni civili erano gli unici fattibili imposti per obbligo. Quindi una difficoltà a cogliere alcuni aspetti e a sottolineare la centralità della sacramentalità del matrimonio. Così temi molto così presentati in termini molto apodittici, quali la contraccezione, l'aborto, quasi rifiutati per la memoria di una martiria che diversi padri di quelle persone che erano presenti avevano patito. Penso al blocco asiatico, dove è emersa come importante la famiglia cristiana, sotto il profilo della missionarietà, cioè a fronte di un interesse per la persona di Cristo, la necessità che ci fosse anche una famiglia che testimoniasse l'eminenza del messaggio cristiano concretandolo in uno stile di vita. L'interesse per il Cristo veniva in un qualche modo ad essere messo in discussione o a scemare nel momento in cui si presenta una famiglia cristiana che non ha un alto profilo morale, un alto profilo etico, che non è capace di testimonianza di quello che dice. E tutti questi tre aspetti presentano immediatamente anche una domanda di carattere pastorale, perché noi nelle nostre città, specialmente del nord-est o dell'Emilia, troviamo poi persone che provengono da questi contesti, i quali portano questa ricchezza culturale, queste domande, e si trovano davanti al modo di vivere la famiglia come è vissuta da noi. E questo contrasto, a volte questo scontro, diventa molto forte. Penso ad esempio al tema della fecondità, tema importante, un tema che ha salvato l'Italia sotto il profilo demografico in questi anni, ma che ora viene ad essere messo in crisi dall'uso massiccio della contraccezione e dell'interruzione della gravidanza da parte anche di questi nostri fratelli che vengono da contesti culturali nei quali la fecondità è estremamente importante. Quindi si pone anche un problema pastorale. Un secondo carattere della famiglia è dato, un secondo tratto di carboncino, se volete, è dato dal leggere le famiglie che hanno un volto ed una storia. La famiglia della Mois, Letizia e del Sinodo non è semplicemente un'idea astratta, ma è una famiglia che è stato oggetto di un ascolto significativo nei questionari, quelli che hanno fatto ammattire i parroci o hanno fatto affrettare una preparazione, ma che ha avuto momenti veramente importanti all'interno del dibattito sinodale. Non sto qui a dilungarmi, sarebbe comunque interessante non una aneddotistica, ma vedere lo schema delle giornate al sinodo, per vedere che alla parola del padre sinodale incaricato di una breve lezione divina, immediatamente succedeva la testimonianza di una famiglia. E come specialmente nei circoli minori la voce delle famiglie si è fatta sentire molto forte. Ma un linguaggio che per un ascolto che ha portato ad un linguaggio che si fa attento all'esperienza della famiglia, che parte dalla vita, un linguaggio nel quale, come dicevo di coniugi Miano nella presentazione del documento, le famiglie si riconoscono e si riconoscono nella concretezza della loro esistenza. Vorrei inserire qui, come farò di tanto in tanto, una piccola digressione. Credo che sia importante a questo punto sottolineare che la famiglia, questo tratto che emerge, è una famiglia che va ascoltata, è una famiglia con la quale interloquire con un linguaggio che sia non alla sua portata, ma che sia un linguaggio che la investe. E nello stesso tempo è importante rivalutare l'apporto di coppie, di sposi e di laici per la nostra riflessione teologica e poi pastorale. È un rilancio che fa Amoris Laetitia e il percorso sinodale dell'esperienza. Esperienza che deve essere sapientemente valutata alla luce anche del filtro di una conoscenza teologica per essere portata davanti a tutti. Quindi un linguaggio che tocca la vita, un linguaggio che tocca la vita, capace di concretezza e di andare a cogliere le situazioni concrete nelle quali la famiglia vive. E qui pongo un'ulteriore riflessione: il valore della storia e dell'esperienza nella riflessione teologica sulla famiglia. Io credo che storicamente sia stata l'esperienza della famiglia, la storia, a sollecitare anche una riflessione di teologia e di teologia morale su matrimonio e famiglia, stimolati ad esempio dalla domanda di spiritualità sulla famiglia. Penso al percorso del secolo scorso, i primi decenni del secolo scorso, e penso anche al fatto che le famiglie con la loro esperienza e le loro domande abbiano sollecitato e anche stimolato una certa riflessione teologica ed anche il magistero dei vescovi. Siamo quindi all'interno di una famiglia concreta, una famiglia che va ascoltata, una famiglia che ha qualche cosa da dire. Ma un ulteriore tratto di questa immagine è la dinamicità della famiglia. La famiglia è un insieme di relazioni in cammino. Relazioni in cammino che vengono, per così dire, accolte all'interno del procedere del Signore. Possiamo dire che il percorso sinodale, sinodo straordinario, sinodo ordinario, fino all'Amoris Laetitia, ha avuto nella dinamica della famiglia un modello e uno stimolo. La famiglia di per sé stessa è una realtà dinamica. È una realtà dinamica nelle relazioni che si innestano dal punto di vista orizzontale, l'io e il tu, che decidono un percorso insieme e che forse arrivano a sposarsi, è una dinamica nelle relazioni verticali, la genealogia. Sposandosi uno sposi il cromosoma del nonno della consorte e nello stesso tempo dà adito ad un percorso di crescita che continuerà. Ma la dinamica stessa della famiglia è fatta di una relazione che viene a maturare, a crescere, in un percorso non sempre lineare, nel quale non sono assenti purtroppo anche i momenti dolorosi, le fragilità. Allora è riscoperta e rilanciata, non come ecclesiasticense, ma come realtà vera, la dinamica del cammino, di un procedere che è insito nella famiglia. Questa è in un qualche modo anche la dinamica alla quale il Papa ha voluto ispirare questo percorso. E la famiglia si è collocata all'interno di questo percorso come una sorta di lievito al quale fare riferimento, al quale anche modellarsi. Allora penso al grande significato che ha avuto il tenere davanti una dinamicità partita dal questionario e arrivata il 19 di marzo alla Moris Letizia, dove riscontriamo questa dinamicità. La riscontriamo ad esempio nella scelta sinodale. Il Papa ci ha riproposto un percorso che non a caso ha avuto al suo interno la memoria dei 50 anni del Sinodo. Abbiamo celebrato solennemente quella memoria. Ad indicare che la Chiesa è tale perché cammina insieme e ad evidenziare che è un percorso questo che deve continuare anche successivamente. Ecco allora questo modello familiare che è accolto all'interno della dinamica del Sinodo e che prospetta un modo di camminare della Chiesa. Ma questo percorso, questa dinamicità, questa umiltà che è procedere nella concretezza dell'esistenza insieme alla famiglia, noi non lo ritroviamo semplicemente nella Moris Letizia, lo ritroviamo anche in quella parte più delicata che è il capitolo 80. Un mio amico mi diceva, la Moris Letizia è semplice per 8 capitoli su 9. L'ottavo capitolo presenta una sua complessità. Ma l'ottavo capitolo intende collocare insieme la dottrina che il Papa non vuole cambiare circa il matrimonio e la famiglia, la disciplina che non vuole toccare, né vuole ribadire in modo apodittico e astratto, con la condizione concreta della famiglia che vive situazioni di fragilità. Pertanto, questo percorso è veramente tale perché si fa aderente alle varie situazioni che la famiglia sta vivendo. Una pastorale familiare che allora è accanto, siamo nei numeri precedenti, 300, è accanto alle varie situazioni. La famiglia che vive nel matrimonio civile, i nuclei familiari che sono nel contesto della convivenza, le persone che hanno ancora urente il dolore di una separazione, fino a quelle persone invece che hanno maturato una condizione di vita tale da potersi presentare alla Chiesa e chiedere di essere illuminati, sostenuti in un percorso di discernimento. Capitolo numero 300. Percorso di discernimento che deve essere letto in un modo amorevole, attraverso un percorso preciso, vedi i punti di questo esame di coscienza, e che deve essere tenendo presente i condizionamenti che possono avere portato a compiere un atto morale, il consenso, contrassegnato da condizionamenti tali da renderlo non vero, oppure condizionato al punto tale da essere bisognoso di un acuto discernimento, fino al punto di trovare situazioni nelle quali si vive non nella verità, ma si vive una condizione di vita nella quale il Signore comunque chiede una vita virtuosa, sostenuta dalla grazia. È quindi un percorso vero e autentico che il Papa ci vuole mettere davanti. Un percorso che noi ritroviamo come un metodo che l'Amoris Laetitia ci vuole lasciare. Sotto un altro profilo, la famiglia ci appare così come una, come ripiena, come colma del suo valore e di una definizione precisa. All'interno del sinodo, più volte era stata richiesta una definizione sulla famiglia. Qualcuno diceva: noi rischiamo di fare una relatio finalis che non contenga una definizione di famiglia. Qualcuno si appellava giustamente a Gaudium Spes 48, si appellava, ma alla fine il Papa ribadisce con chiarezza cos'è la famiglia, mettendo in guardia anche da quello che non è famiglia, e nello stesso tempo parimenti mettendo in guardia anche da quei semi di verità che sono presenti nelle varie realtà familiari, che non sono espresse compiutamente nel sacramento del matrimonio. Il famoso intervento, il primo intervento del sinodo, del Cardinale Schönborn, il quale in modo analogico fa riferimento al Lumen Gentium 8 dicendo: la verità della Chiesa Cattolica sussiste, della Chiesa sussiste nella Chiesa Cattolica, parimenti la verità del matrimonio sussiste nel matrimonio sacramento. Ma accanto a questo, dice il Cardinale Schönborn, ci sono altre forme di matrimonio, altre modalità di vivere la famiglia, o meglio, che in un qualche modo racchiudono dei semi di verità. Non si parla assolutamente dell'unione omosessuale, che è tutta un'altra cosa. Bene, qui il Papa lo ribadisce chiaramente, però sottolinea con forza che la presentazione dell'ideale non deve essere tale da avvilire, ma deve essere tale da attrarre. E questo noi lo troviamo, espresso anche nei confronti, ed è il vostro tema, dei giovani. Dei giovani quali non si sposano. Le chiacchiere di corridoio ci riportano il Papa che più volte imbastisce questo discorso con vescovi e padri provenienti da diverse parti del mondo. Ma Amoris Laetitia sottolinea con forza come il desiderio di amore, il desiderio di un incontro pieno tra un ragazzo e una ragazza, non solo non è avvilito dal sacramento del matrimonio, al contrario, il sacramento del matrimonio, l'istituto prima del matrimonio, il sacramento, lo prende, lo consolida, lo solidifica e lo ama e lo rimanda nella sua pienezza. Ecco allora l'importanza di offrire ai giovani un messaggio così fatto, che ha nelle famiglie concrete che vedono attorno dei riferimenti. Un messaggio che può essere offerto all'interno della comunità cristiana da un continuum. Ecco l'importanza di quello che chiama la pastorale, la familiare sconsorzio, la preparazione remota, prossima, immediata, che significa semplicemente una relazione continua con questi ragazzi che possono essere accompagnati nella educazione all'amore, in una dinamica vocazionale per capire la tua vocazione al matrimonio, fino al momento della celebrazione ed oltre, ma senza sfuggire in un astrattismo o in una realtà che non esiste, ma nella concretezza dei volti dei nostri ragazzi. Quello che padre Oliveo diceva precedentemente. La Moris Letizia, e ancora prima, sottolinea questa importanza e sottolinea che questo accompagnamento deve essere della comunità. Ecco allora la formazione dei pastori, dei seminaristi, si coglie la fragilità di tanti candidati al presbiterato che hanno alle spalle loro stessi una famiglia separata. Cardinal Schönborn fece scalpore presentando la sua situazione. Il giorno più brutto della mia vita è stato quando mio padre mi ha detto a 15 anni: ci dividiamo da tua madre, ma per te non cambia niente. I candidati hanno alle spalle questo, spesso. Ecco, l'importanza si nota che all'interno del seminario ci sia un'attenzione, ci sia una presenza femminile, ci sia una presenza di una coppia di spose, capace anche di accompagnare questo. Io non penso ai mega seminari di al di sopra del Po come i vostri, ma penso anche ai piccoli seminari sotto al Po, dove questo è molto importante. Ne risulta allora, in questo quadro, io poi darò i fogli, perché adesso vado a braccio, perché non sono capace di leggere quello che ho scritto. Già mi annoia, scriverlo, leggerlo è insostenibile. Ci saranno delle citazioni. Questo allora, la domanda era qual era il volto. Il volto è di una famiglia non definita sotto una particolare cultura. Una famiglia che si presenta anche ricca di elementi diversi, di sottolineature diverse. Una famiglia che ha un volto e una storia concreta, che bisogna sapere ascoltare e che è capace di fornirci elementi importanti a partire dall'esperienza e dalla storia. Ci propone, ci chiede un linguaggio che tocca la vita. Una famiglia che è un insieme di relazioni in cammino, che in un qualche modo sono state il fermento e la modalità dello stesso sinodo. Una famiglia che ha al suo interno la dinamica della crescita, ma anche la fatica degli strappi, delle ferite, e pertanto ecco l'importanza di una Chiesa che sa accompagnare, sa discernere, sa essere misericordiosa. Una famiglia che ha davanti a sé un ideale che non la abbatte, ma che la attrae, e questo in particolare nei confronti dei altri. Se questa è l'immagine, che non deve poi essere troppo idealizzata dalle mie parole, basterebbe leggere la Relatio Finalis del primo sinodo, il sinodo straordinario, al quale il Papa mi ha nominato. Allora io in un momento di l'anelito papista che mi contraddistingue fin dall'infanzia. Sono andato dal Papa e gli ho detto: Padre Santo, la ringrazio di avermi nominato, mentre prendevi il caffè. E il Papa si è voltato, mi ha guardato e mi ha detto: anche i papi si sbagliano. Con questo gli ho girato lontano per un po', ecco. No, ma aveva ragione, ecco. L'altra prospettiva, ecco, l'altro passaggio è quello della vocazione. Anche qui potremmo tirare fuori realmente tante affermazioni dai documenti magisteriali, perché la Moris Letizia è un documento magisteriale, qualcuno ha tentato di negarlo, ed è un passaggio ulteriore di quel ricco contenuto, di quel ricco percorso di documenti organici sulla famiglia che parte dall'Arcanum Divine Sapiens del 1880. Quindi, che poi tutto bisogna vederlo nell'infilata della Moris Letizia, oppure che collochiamo la Moris Letizia come un passo significativo, questo lo lascio discutere ai teologi di professione. Però siamo in questo contesto. E la Moris Letizia come percorso, la Moris Letizia in particolare, puntano la loro attenzione proprio sull'amore. Un termine oltremodo abusato e che fa del titolo stesso una sfida. Cioè la capacità di dire oggi l'amore è un amore che è gioia, che è pienezza di vita e nello stesso tempo è gioia. E potremmo immediatamente andare ad una disamina di come l'amore nel percorso che Padre Olivio ci ha rappresentato non abbia avuto particolari entrature nel Magistero della Chiesa. Perché, come dicono i canonisti, l'amore cos'è? Non è una res, non è un contractum. Però l'amore qui è declinato in un modo particolare, a parte che la ripresa dell'amore nei documenti magisteriali parte da molto lontano, che è declinato con una sapiente attenzione biblica, partendo e prendendo come riferimento il primo Corinzi 13, l'inno all'amore, il capitolo 4 e successivamente il capitolo 5 della Moris Letizia. Non entro nel merito, ma a me piace pensare come l'amore, come la carità, qui sia declinata in chiave di carità coniugale, ponendo accanto a questo Gaudium et Spes 49. Gaudium et Spes 49 descrive i tratti dell'amore naturale, quell'amore che è un totalmente umano, totale, unico, fedele, fecondo. Quell'amore che ha come attributo necessario la fecondità. Ecco allora Gaudium et Spes 50 e 51, dove si parla del percorso di discernimento della coppia in ordine al generale, e generale significa educare. E qui il tema potrebbe allungarsi al ministero della vita espresso in familiaris consortio, che vede al suo interno come intrinsecamente unita l'educazione. Allora le espressioni paoline vanno lette alla luce di questo amore, un amore così fatto che, diceva il Concilio di Trento, è purificato ed elevato alla dignità di sacramento. In questo contesto noi troviamo anche una nota che potremmo andare subito a inserire al capitolo 9, laddove si parla della spiritualità della coppia e della famiglia, che mi pare dobbiamo qui innestare. Perché uno dei caratteri della famiglia cristiana e anche della storia, della morale e della teologia, è quella di avere avuto un'origine e di una scatorigine in chiave spirituale, in particolare nella lettura della parola di Dio. Se noi prendiamo i primi vagiti della spiritualità coniugale in quanto tale, li andiamo a collocare insieme al rinnovamento biblico dell'inizio del secolo scorso. Ma al di là di questi carotaggi storici che ogni tanto faccio, la spiritualità della famiglia ha una particolare attrattiva verso la parola di Dio, è una sorta di lectio della parola di Dio nella famiglia. Allora non la troviamo specificatamente nel capitolo 9, la troviamo nel capitolo 4. Una famiglia che vive l'amore coniugale lo trova, questo amore declinato al suo interno, con le parole dell'inno alla carità. Ci troviamo quindi davanti agli attributi di questo amore, che in un qualche modo delineano ulteriormente l'immagine della famiglia. È quindi una famiglia che deve cercare di vivere al proprio interno la pazienza, la benevolenza, una famiglia capace di perdono. Pensate alle parenesi di Papa Francesco su questo. Una famiglia che al suo interno cerca di trovare nell'amore la gioia. Il capitolo 4 ha delle espressioni estremamente concrete su questo, ad indicare ad esempio come la gioia nasca all'interno della concretezza fatta di sofferenze, di battaglie vinte, fatte dalla scelta del dialogo e di darsi tempo, fatta anche dalla capacità di cogliere il cambiamento dell'altro. Qui il Papa nel capitolo 4 vuole fornire tutto un insieme di, diciamo così, di pennellature concrete. Non ha problema a entrare nel merito della concretezza della vita familiare. Una vita familiare che ha teoricamente un lasso di tempo molto più ampio rispetto alle famiglie del secolo scorso. E allora le persone si sposano, hanno davanti a sé, dicevo un amico storico, almeno 40 anni di vita, anche se si sposano sui 30 anni, o meglio iniziano una relazione stabile sui 30 anni. Allora la capacità di accogliere il cambiamento. Il cambiamento che è un cambiamento fisico, il cambiamento che diventa un cambiamento nel modo di pensare, di progettare la vita e di crescere all'interno anche di questa dinamica. Una famiglia quindi che declina l'amore in questo modo. Un amore che è immediatamente un amore che è chiamato ad essere fecondo. E qui ci troviamo davanti ad un'altra grave crisi che ha visto il sinodo interessarsi molto della famiglia. Se da un lato la domanda è non ci si sposa più, dall'altro l'altro aspetto è la crisi demografica. Qui c'è una rilettura importante dell'umane vite. L'umane vite credo che sia colta in quel desiderio di paternità e maternità che a mio parere è fondato antropologicamente in modo molto valido proprio nella stessa umana vita, i numeri che vanno dal 9 fino al 12. Il sinodo ha discusso lungamente sui metodi naturali. L'espressione che si ricava dalla Moris Letizia è molto, diciamo così, molto piccola, ma a mio parere molto significativa. Si dice che si incoraggiano i metodi naturali accanto ad una valutazione di coscienza. Ecco una parola che ritorna. Coscienza alla luce di Gaudium et Spes Sedici, naturalmente. Però è data, diciamo così, è fatto un appello alla famiglia perché sappia esprimere un giudizio di coscienza in ordine alla generatività, alla fecondità, un giudizio di coscienza nel quale tenga presente quella modalità di dialogo, di incontro, che sono anche i metodi naturali. Mi sembra che ci troviamo davanti a due novità: termine di coscienza esplicitamente espresso e l'incoraggiamento. Per quella logica di morale parenetica che, a mio parere, la rintraccio qui al capitolo quinto, ma anche nel capitolo ottavo, laddove giustamente il testo diventa molto duro verso una morale eteronoma ed una morale che non fa altro che essere una sorta di applicazione meccanica di una legge generale. Ecco allora che si parla della capacità di accostarsi alle persone e, in quella situazione concreta in cui stanno vivendo, vedere un percorso di fede e di vita buona concreta. Ma questo è quello che da sempre deve fare la morale, cioè l'essere capace di formulare una vita buona, illuminata dalla parola di Dio e che persegue il bene della persona. Optatam totius 10 non dice cose diverse. Allora, ecco che la famiglia che viene così ad emergere è una famiglia che gioca di nuovo la carta dell'amore, capace di concretare l'amore coniugale nella propria vita e di declinarlo in base all'inno alla carità. Un amore che è un amore chiamato ad essere fecondo e un amore nel quale si accetta la concretezza della vita, dalla dimensione erotica, passionale, alla concretezza nel quale è anche presente la fragilità, il cambiamento, la capacità di essere chiamati a compiere passi ulteriori, laddove la famiglia si è trovata in un confronto anche dialettico e problematico con la propria concreta esistenza. Allora, quello che il Papa ci propone non è una strada per la famiglia che si inerpica, diciamo così, in diretto sopra quella montagna che è la verità, ma un percorso, se volete, ancora più lungo, ma sempre in ascesa, nel quale la famiglia giorno per giorno compie passi, attratta da quel bene che è il sacramento del matrimonio, che già vive, ma che giorno per giorno è chiamata a perseguire sempre di più, in una pienezza, in una gradualità che non vuol dire sminuire l'ideale, ma al contrario, accogliere l'ideale come un Vangelo che stimola e che attrae. Come dicono alcuni, il sinodo, la Moris Letizia, prospetta un metodo, oltre che richiamare, rilanciare un contenuto. A questo punto noi possiamo collocare il tema della missione. Il sinodo, purtroppo, ma qua sono davanti ad eminenti teologi e lascio a loro, non parla di ministerialità e del ministero, della coppia e della famiglia. Io personalmente, in uno dei miei interventi, l'avevo chiesto, ma non è che perché lo chieda io, però mi premeva rilanciare una tematica che era cara alla riflessione di familiari sconsorti. La famiglia credo che sia, come missione, fermento di una chiesa sinodale in uscita. Credo che il termine sinodale, o meglio, la realtà sinodale della Chiesa sia stata bene attuata nel percorso sinodale che il Papa ha voluto fare. Un percorso che anche qui ha una sua storia, non solo la storia di 50 anni, ma penso al sinodo del 1981. Uno dei passaggi più delicati del capitolo ottavo è il famoso numero 84 della Familiaris Consortii. Ma ancora di più, credo che il Papa abbia voluto, con questa modalità, prendere davanti uno dei temi più sensibili che la Chiesa e la comunità mondiale deve davanti, che era il tema della famiglia. E qui credo che ci sia un ulteriore spicchio di quel metodo che il Sinodo ci vuole annunciare: non avere paura. Non avere paura di camminare, di ascoltare questo appello che la famiglia ti fa, specialmente in quelle situazioni difficili, complesse, per le quali non c'è una risposta immediata. Il Papa questo l'ha messo al centro. E l'ha messo al centro, diciamo, in quella tempesta mediatica che ha sempre accompagnato e introdotto il Sinodo. Se fate memoria dei momenti storici, o meglio, cronicistici in cui il Sinodo è partito, siamo sempre davanti a quello. Ma tenere ben fermo questa direzione sulla famiglia così intesa e metterla al centro della Chiesa. Qual è il servizio che la Chiesa, che la famiglia può compiere all'interno della Chiesa? Quello di prendere la luce del faro, di farne una fiaccola e di portarla davanti a tutti. Questa immagine del faro e della fiaccola è un'immagine che la ritroviamo in tutte le relazioni, ma credo che dia ragione del percorso che il Sinodo ha inteso fare. La luce della verità risplende certamente su questa, sul faro, ma non è sufficiente che risplenda lì. Deve illuminare ogni casa. Pertanto l'azione della Chiesa con le famiglie deve essere quella di portare. E questo lo possiamo rintracciare anche in quei percorsi che il Papa chiede, percorsi di discernimento nei confronti delle famiglie ferite, ma più generalmente all'interno delle nostre comunità cristiane. Ecco, allora possiamo leggere in questa logica l'appello che il Papa fa al discernimento, all'integrazione, ad una morale misericordiosa, all'attenzione, alla coscienza. Ma ancora, ci sono punti particolari nei quali questa famiglia è chiamata in causa. È chiamata in causa direttamente con un servizio specifico. Parlo, allora, voi parlerete del fidanzamento. Vi cito semplicemente il numero 206, 211, 223. La logica è quella di una comunità che accompagna i giovani verso il matrimonio. Il tema sarebbe ampio, ma sono possibilità concrete. In questa comunità è fondamentale la testimonianza delle famiglie. Numero 211, famiglie disponibili per fare questo. Fidanzati aiutati da famiglie disponibili. Numero 223, aiuto offerto alle giovani coppie attraverso coppie di sposi con esperienza. Qui, se volete, troviamo quella possibilità di personalizzazione che altrimenti resta spesso un enunciato e basta. E qui troviamo anche il ruolo missionario della famiglia, capace di fare questo. Nella società, certamente c'è nei confronti della società una capacità della famiglia di proporsi. La Chiesa è ricca di una capacità della famiglia di proporsi. E qui viene ad essere messa all'interno della nostra normale pastorale quella voce laicale che solo la famiglia può offrire. Chi meglio della famiglia può prospettare ai giovani una dinamica relazionale? O chi meglio di una madre può prospettare a delle ragazze la fecondità? Questo non è semplicemente qualcosa così di belle pratiche che succedono ogni tanto, ma deve essere una capacità di fare spazio ad esperienze che hanno al loro interno una intrinseca efficacia, perché nascono da un apporto antropologico indiscutibile e anche da un dono dello Spirito, che è quello di essere uniti da un sacramento, capaci di proporre il proprio sacramento nella concretezza di una vita. Poi ci sono offerte specifiche, vi cito i numeri 183, rendere domestico il mondo, proporre una famiglia allargata, capace di non essere semplicemente quel io-tu che è un allargamento del nostro individualismo, capace di una socializzazione primaria, la famiglia è il luogo di democrazia, capacità di intessere relazioni, numero 276, capace di una ecologia integrale, è in famiglia che si impara il rispetto del creato con quella dimensione antropologica che è essenziale. Una famiglia, numero 251, che sa anche essere critica nei confronti di un colonialismo ideologico che diventa ricatto, specialmente nei paesi del sud del mondo. E qui il numero 250 è quello, l'unico numero in cui si parla di persone con tendenza omosessuale, perché si riscontra la presenza di queste persone all'interno della famiglia. Moris Letizia, nel Sinodo se ne è parlato molto, ma Moris Letizia parlerà in quel numero e basta, indicando la necessità che la Chiesa accompagni questo percorso. E poi da ultimo, il contributo reciproco di Moris Letizia e la dottrina sociale della Chiesa. La famiglia, e vi cito questo documento, quest'ultimo, la famiglia vive la sua spiritualità peculiare, essendo nello stesso tempo una Chiesa domestica e una cellula vitale per trasformare il mondo. La spiritualità stessa, siamo al capitolo 9, è una spiritualità che è estroversa e che vuole tradursi nella concretezza di un annuncio. Allora la riflessione posta, e qui finisco citando un editoriale sulla rivista La Società, la famiglia che presenti i quattro cardini della dottrina sociale della Chiesa: il valore della persona, la solidarietà, la sussidiarietà e il bene comune. Io sono sforato, chiedo scusa, non ho seguito il testo. Comunque, ho finito e finisco con questa frase che mi è venuta. In tutto questo percorso cerchiamo frutti nuovi, da radici antiche ancora da maturare. Grazie. Monsignor Enrico Solmi, Vescovo di Parma, delegato dei Vescovi italiani al Sinodo sulla Famiglia 2014-2015, è già presidente della Commissione Episcopale per la Famiglia e la Vita della CEI tra il 2010 e il 2015. È intervenuto insieme a Padre Oliviero Svanera, rettore della Basilica del Santo e docente di morale sessuale e familiare alla Facoltà Teologica del Triveneto. I loro due interventi che vi abbiamo appena proposto nel corso della giornata di studio aperta al pubblico del biennio di specializzazione della Facoltà Teologica del Triveneto sul tema Verso il matrimonio cristiano in ascolto del Sinodo dei Vescovi. Grazie a voi tutti per averci seguito, grazie alla Facoltà Teologica del Triveneto che collabora con noi, avremo altre proposte anche nei prossimi giorni che arrivano proprio dalla Facoltà Teologica del Triveneto. Grazie ai didaici alla parte tecnica, da Mirko Cavallin, buon proseguimento di ascolto.